abita tu? Non lo so, io ripeto, Emanuele, io sono andato anche alla prima per le linee del disco, io ho fatto due operazioni, poi dopo tre mesi sono andato fatto più grossa operazione, infatti ero indeciso, la notte volevo anche scappare via, toccato, mi apri la pancia, e invece poi mi sono fatto coraggio, sì, mi hanno operato, posso dirti, sono troppo tranquillo, contentissimo, io quando camminavo dovevo fermarmi per forza sedermi, tre passi facevo e mi bloccavo, una è le linee del disco, se è solo le linee del disco è una cazzata. Sì, io, c'era il disco, prima era le due, le tre, adesso in salita c'erano altre due, poi c'ho anche quelle cervicali, quindi va, te lo pronto, e ancora riesco a fare qualcosa. Vabbè, io il mio è stato complicato perché mi ha spostato tutta la budella praticamente, la gavetta al titanio, dietro me l'ho fatto due tagli e ho tre tagli dietro la schiena, attivo era nel disco centrale, poi destra e sinistra altri due tagli belli grandi che mi hanno messo i tiranti che prendevo la gabbietta davanti con delle viti lunghissime, io ho anche la foto, caspita, se le vedo ogni avviti che faccio, eppure grazie a Dio, sono tranquillo, dai, non posso dire niente. Sì, vabbè, se l'ha fatto solo fare le ferite ormai, ma le avviti, anche a me mi hanno tolto tutto l'intestino fuori, mi hanno operato anche lo stomaco, quindi, vedi un po', a me mi hanno tolto tutto l'intestino, mi hanno operato lo stomaco, ma non l'ho preso, me l'hanno imbragato. Giulio, non sono tu allora, dai. Ok Tony, beh, purtroppo nella vita ci vuole fortuna, dai. Ci vuole fortuna, questo è ovvio. Però quando qualcuno ha un problema di salute ci deve andare fiducioso, farsi curare, perché poi se uno ci va disperato è ancora peggio. E soprattutto è importante anche l'apporto della famiglia che ti sostiene moralmente, quello è importantissimo. Purtroppo è così, c'è gente invece che va disperata e non ce la fa, riesce ad avere la peggio, però purtroppo le malattie ci sono, sono fatte per le persone, e le persone quando è possibile si curano, a differenza di oggi che la sanità non è che sia tanto pronta a curare le persone, già lo sappiamo, no? La crisi che c'è nella sanità, però sperando sempre che si riesca a risolvere sempre il problema, io lo auguro a chiunque, anche al peggior nemico della mia vita, che io nemici tra l'altro non ne ho, però per dire, si dice così, no? Voglio che le persone vivano serenamente, tranquilli, senza nessuno, perché voglio bene a tutti e voglio che gli altri mi vogliano bene anche a me, allo stesso modo. Vai Tony. Io stavo abitando la vita piccolissima dello spinotto del microfono, ripeto un attimo che si corsa vita. E allora c'è uno spinocchio vecchio, perché ormai quelle vitelline non esistono più nei nuovi spinocchi. Non è così. Adesso stai cambiando il nuovo microfono, Tony, perché ti ho sentito armeggiando, evidentemente stai manomettendo lo spinotto, eccetera, eccetera. È così, Antu, è così. Purtroppo la vita è preziosa e uno se la deve tenere conto, non deve strafare, non deve soprattutto disperarsi quando si ammala, perché Dio vede e provvede, lui vuole bene a tutti. Vai Antu. Beh, certamente, chiaramente, siamo tutti quanti figli di un Dio, però non è che uno, è come quando un padre fa tanti figli, no? C'è sempre qualcuno che sfugge. E infatti ho rimesso l'altro microfono. Questo vedi è diverso. Questo è più squillante, dai. Sì, più metallico e più squillante. Ti stavo dicendo, stavi mettendo la vitina, sicuramente è uno spinotto modello vecchio, perché in quelli nuovi c'hanno la ghiera a vite, vitina non ce n'è più. Sì, lo so, questi sono dei vecchi. Perché tu mi incazzavo sempre, certo, quanti non ho messo da parte tanti anni fa, quando cadeva quella cazzo di vitina e non la trovavi più. È un casino, è piccola, perché la lente, gli occhiali, in tutto l'altro, ma c'è una bella. Sì, ma poi non riuscivi a trovare una che gli andasse bene, quindi a quel punto ci devi buttare tutto quanto il connettore. Allora, dai, io chiudo perché devo fare cosa, devo prepararmi anche per la cena, tutto quanto. Dai, mi ho fatto piacere, niente, più spesso, altro dai, ce la scontiamo, stammi bene, saluto la Quarea, ciao Giulio, io anche come sopra come te, dai, lo stato di bene, io chiudo tutto, ritiro tutto a Salvatore e compagnia cantante. ascolto fino a lì, la chiudo. Ciao ciao. Mi prendo io, Ia. Mi ha fatto piacere anche a me, Tony. Un abbraccio grande. Vai, Giulio. Ok, ciao Tony. Grazie per la chiacchierata, dai, è stato un piacere. Alle prossime, mi sentisci presto, sperando che il mal di gola mi passi il più presto possibile, perché già sto incominciando di nuovo a sentire gracchiare. Vabbè, comunque, facciamoci forza nella vita, così almeno andiamo avanti più serenamente. Ciao di nuovo Tony, anch'io tra un po' devo chiudere perché devo fare terapia, perciò non è che mi posso trattenere, massimo 5 minuti ancora, perché devo fare terapia di mattina e di sera. Di nuovo buonanotte Tony, alle prossime, ci sentiamo. Avanti a tu. Ciao Tonino. Ciao ciao. No, anche io intanto 5 minuti, poi devo andare a prendere mia figlia, quindi 5 minuti mi dedico ancora, tanto ormai questa sera non ho fatto nulla. Vabbè, tu non hai battuto stasera, evidentemente te lo potevi permettere. Dimmi una cosa, stai lavorando a stasera o sei sempre fuori, come eri in trasferta tempo fa? No, sempre fuori, io qua non c'è più. Ma che cosa, la faccio qui, sì, ma sono quasi sempre fuori. Giù, non c'è niente qui, no. Vabbè, sempre qui intorno, non è che... nel senso qui in Sardegna. Sì, quello sì, ho capito, non sei andato in America, stai lavorando qui in Sardegna, è interessante lavorare, anche se c'è un certo disguido perché devi viaggiare, eccetera, eccetera. Poi non lo so se viaggi tutti i giorni o se viaggi di settimanalmente, quello non lo so e non lo voglio sapere, non è il caso che tu lo dica per questa, perché sono affari tuoi, ma mi immagino quale può essere il disagio che uno va fuori dalla città dove vive. Ecco, tutto lì. È rientrato Gianni? Io mi sono fatto la doccetta, non sono morto, ho staccato lo scaldabagno come faccio sempre. No, lo stacco sempre anch'io, Giulio, per la mia evenienza. A mia sorella gli è successa una cosa. Praticamente gli era caduta la... si stava asciugando i capelli dentro la vasca, gli è caduto l'asciugacapelli e per poco non ci rimane, se non lo stacco io con la scopa e rimane elettrizzato. Ma non potevi andare prima a staccare il contattore? Quella è una cosa gravissima, guarda, io sono sempre stato contrario alle prese nel bagno, perché lo so che poi i giovani, le ragazze, soprattutto i figli, perché non ne capiscono niente, attaccano la spina con l'asciugacapelli mentre sono dentro la vasca da bagno. Scusate la tosse, c'è picchiaio, insomma, la gola mia non sta funzionando bene. Capito Gianni? È pericolosissimo, io sono sempre stato contrario a mettere le prese, ma anche quando lavoravo, ero sempre contrario a fare le prese nel bagno, pensa un po'. Tu cosa ne pensi tu? Ma allora, a quei tempi non esistevano, perché nel bagno non c'era niente, c'era solo la luce. Però cosa fai adesso? Sto di giù. I giovani, mia figlia piastra, ricercapelli, diffusore, Maranni, dentro di le prese, quella mi manda a fanculo a me. Lo so tu. Però è meglio di avere altri dispiaceri, figurati. Io guarda, anche da poco ne avevo una dietro la porta, che era un interruttore e una presa c'era, che la presa, l'interruttore e la luce del terrazzino del poggiolo. Si era rovinato l'interruttore bipolare e l'ho cambiato, che era proprio quello relativo allo scaldabagno, ma c'era anche una presa di fianco. Avete giovato, ne giocava della brisa e ho lasciato solo l'interruttore, che così almeno stacco direttamente dalla corrente dallo scaldabagno e non se ne parla più. Però non, a nessuno può venire in mente di attaccare l'asciugacapelli, anche se era impossibile arrivare alla vasca perché era lontano dalla vasca quella presa lì. Però io per esperienza ne aggiungavo, io ho detto se ti devo asciugare i capelli ti lavi e poi entri nella tua camera e ti asciughi nella tua camera. Così ha giovato e nessuno ha detto niente a tu. Sei stato fortunato, no? Vabbè, io per carità ormai con questi nuovi maglietto semplici differenziali mascherina, quindi c'è l'impianto di messa a terra, non è più come tanti anni fa, però per carità, oddio, per le cose, sai, non ci mette lo zampino, il diavolo. Non si sa mai, già lo sai com'è, uno non si sa mai, può avere un incidente senza nemmeno a pensarci, così, inavvertitamente fa una cosa che non dovrebbe fare e può succedere un incidente. Avanti Gianni. È andato a spegnere lo scaldabagno. Adesso per domani mattina, per forza, per domani mattina per l'altra doccia. No, io la verità sempre, anche qua tutti a casa, quando ci facciamo il bagno, la doccia, sempre stacchiamo lo scaldabagno, tanto, anche perché è facile, ripeto, c'è l'interruttore bipolare o altro, quello che stacca sia il neutro che la fase e non c'è problema, e tutto va bene così. Io ripeto, poco fa ho detto scherzando, io lo spengo solo quando si fa la doccia a mia moglie, perché io lo scaldabagno a gas, quindi ogni cazzo, se lo spengo non scende acqua calda. Vabbè, quello sì, quello è diverso, non c'è problema. Vabbè, dai, però adesso ti devo salutare, mi dispiace lasciarti perché mi fa piacere parlare con te, anche perché eravamo tantissimo tempo senza sentirci e soprattutto senza vederci. Almeno prima venivi a farmi visita e mi faceva un gran piacere, ma adesso purtroppo io non ci sono più lì, o meglio ci sono ma non presente. Che tra l'altro ho cambiato la porta, prima c'era la serranda, adesso c'è la porta invece, la porta treante. Ci sentiamo Antu, devo fare terapia, purtroppo te devo lasciare, dai, perciò non posso trattenermi oltre. Ciao Antonio, grazie per la chiacchieratina, saluti in casa, è stato veramente un gran piacere averti risentito. Riprendi Gianni se ci sei, se non ci sei Antu, ascolto il finalino e poi chiudo, vai Gianni. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata, grazie per il questione, avanti Antu. Giulio, mi ha fatto piacere anche a me sentirti, mi auguro di poterti risentire anche nei prossimi giorni, se riuscirò a avere tempo per attaccare queste cose. Comunque mi ha fatto un enorme piacere sentirti. Ti abbraccio, un salutone anche alla famiglia. Bene. Grazie anche a te Antu, altrettanto ricambiato. Anche a te Gianni, salutoni e buona serata, dai, ci sentiamo. Grazie per la chiacchierata a tutti quanti. Ciao, chiudo. Ciao giù, io la doccia me la sono fatta, mi sento bello fresco adesso, tranquillo, vi ho ascoltato tutta la luce. Perché cosa ti è separato? Il baracchino di doccia? No, lo sento, dalla camera da letto al bagno, l'ho lasciato la porta aperta, tanto io sono solo, chi mi vede? No, vabbè, anche quello è vero. E io mi adesso tra due minuti sto aspettando che mi chiami mia figlia per andare a prenderla. Capito, anche io, adesso Marco è partito, è andato a cosa, a San Teodoro, si è dimenticato roba, tocca fare 150 km per portare la roba, ma dimmi tu, che ho detto, cerca di portarti tutto perché lì non è facile arrivarci, è lontano. adesso bisogna andare a portargli la roba che si è dimenticata. Vabbè, 150 km ti fai una passeggiata, adesso faccio 500 al giorno. E sono 150 andare e 150 a tornare, sono 300. Ne faccio più di 500 molte volte. Io ho fatto anche 800, 900. Io ne ho fatto molti di più, però qua non si tratta di guadagnare, tu vai per guadagnare, io vado per spendere. Molte volte ci rimetti pure, va? Sì, ma poi non è proprio San Teodoro, è dopo Olbia, a Porto Istara. No, quei posti me li sono pifati tutti quando lavoravo nell'elettronica navale. Sì, lì si trova bene, eccetera. Si stanca molto perché dice che c'è un bel di gente, un bel di gente giace. Ma cosa fa l'animazione? No, lui lavora al ristorante, capito? Fa il cameriere. Ah, nel ristorante addirittura? Sì, nel ristorante lavora. Vabbè, E lì si trotta, lì bisogna correre, non è... parecchia fa, capito? Stanno sempre correndo i cavalieri. Vabbè, la stagione è stagione, questi vivono in quel periodo lì già, non si possono mica lasciare abbindolare, questo è il periodo caldo. Niente, non esco, non si lavora 12 orari. No, io ce l'hanno a riposo, perché l'altro giorno gli ho telefonato dopo presto, ho detto papà stavo riposando, sono stanco molto, ti posso chiamare più tardi, ho detto vabbè chiamami più tardi, era drunca. Ah, tu pensa che io una volta alla schiena, per fare un intervento in un ristorante che dovevamo andare a lavorare con una ditta, e stavamo facendo esclusivamente, solo perché io facevo l'elettricità. A livello sia civile che industriale, perché noi eravamo tecnici, e non solo perché me l'avevano chiesto espressamente per andare a cambiare questa presa interbloccata e gli si era rovinata, beh, sono dovuto andare tra le 4:15, abbiamo detto alle 4:30 di sera, perché poi non avevo più spazio per farmi entrare. Vabbè, si sa che è così, quei posti lì si lavora d'estate, c'è poco da fare. Infatti è stata una scelta sua, prima stava lavorando, ha fatto un colloquio, come si dice, dell'energia, l'hanno preso, gli hanno confermato tutto, gli davano 800 euro più gli incentivi, capito? Perché lui andava a far fare i contratti nelle case, eccetera, eccetera, più gli incentivi su ogni contratto. E poi questo qui gli ha detto, oh no, forse tu hai capito male, sono 300 euro, gli ha detto, no, allora non ci vengo più, arrivederci, se ne è andato. No, ha fatto bene, ma devi andare a cagare. Prima gli ha detto 800, dice, no, ma forse hai capito male, no, io ho capito bene, ne abbiamo parlato, lui mi ha detto 800 più gli incentivi su ogni contratto, ne aveva già fatto 4 o 5 di contratti, già è bravo Marco, sa parlare, sa destreggiarsi bene, dai. Si è sentito preso per i fondi e mia moglie ha detto potevi restare per iniziare così poi magari saresti andato bene e vabbè, ma farsi prendere per i fondi lì così, andava fuori, andavano nel goceano, da tutte le parti, capito? Ci avevano tutto il goceano. Oh sì, già, lo so cosa significa? Che andare lì e rimanere lì significa che ti prendere per il culo un paio d'anni, nel frattempo diventi grande e poi gli altri che sono più piccoli ti passano avanti. Vabbè, là, ti saluto che mi è arrivato un messaggio, ciao. Ehi, vai, vai, tranquillo. Ciao, ciao, stammi bene, tanto grazie per il questo. Ci sentiamo, anche io vado che devo portare giù il cane, è già ora. Ciao. Già, sei sparito per un attimo? Perché te l'ho detto che questo cavolo di microfono mi fa perdere la forza del dito. Mi c'entra dentro. Andà bene, dai, ti abbraccio, mi ha fatto piacere anche a me. Buona serata. Altrettanto, tu, ciao. Sì, vestiti tornato.